Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. In questo momento abbiamo visto che c'è una condizione fisica nei confronti loro, non dico imbarazzante, ma quasi. Dovremmo lavorare molto, perché se vuoi giocare con ritmi alti devi avere anche intensità di corsa. Noi volevamo cercare di conquistare palla alta, non ci siamo mai riusciti, o quantomeno poche volte, perché proprio non avevamo la corsa che hanno loro in questo momento. Che ha balzato l'occhio è che la condizione fisica stasera ha fatto la differenza. Questo, certo, il tempo di recuperare c'è, sapremo dove lavorare, dovremo lavorare parecchio, perché probabilmente hanno speso tanto in questi mesi. Come tutte le vere grandi superstar internazionali, Pierluigi Pardo è entrato in questo momento. Lo saluto. Ciao Pier, come stai? Sono qui già da un paio di minuti. Come stai? Tutto bene? Molto bene. Sei molto bene. Invecchiato dall'ultima volta. Ma dai, basta, già avevo fatto una puntata autoreferenziale, veramente. Poi questa cosa, io già subisco questa cosa dell'età. No? 800240024, Franco Pietrini, direttore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. No, stavo leggendo, lo stai leggendo anche tu, la dichiarazione di Agnelli? Sì. Pogba patrimonio dell'umanità, è all'UNESCO, fa rima. Sì, vabbè, ho capito, dai. Cassano che è? Cassano è un patrimonio di Bari Vecchia soprattutto. Sì, patrimonio dell'umanità fa ridere, dai. Però dal punto di vista tecnico ci sta, nel senso che è uno dei giocatori più importanti che ci sono al mondo. Dice allora Cristiano Ronaldo che cos'è? Vabbè. Senti, tra l'altro qui a questa cerimonia, conferenza dell'UNESCO a Parigi, dove Andrea Agnelli ha detto questa sciocchezza, ci sono c'è anche una dichiarazione importante su Conte, una riconferma, sì, delle riconferme. I miei sogni e quelli di Antonio coincidono, amen. 800240024, amen, l'ho aggiunto io. Allora, ci stava. Sei pronto per andare a Napoli? Venerdì 14 saremmo tonici, scatenati. Oggi voglio, primo ascoltatore deve essere di Napoli, se no io non parlo. Alla fiera d'oltremare, Ah sì, andiamo a agenti.it, certo, fiera d'oltremare, che praticamente è a 50 metri dallo stadio. Ma sai che io non sono presente, allo stadio. Ah, benissimo. Mostra d'oltremare, fiera di Napoli, mostra d'oltremare. Voglio andare a vedere il Napoli. Mezza Italia, mezza nazionale italiana, senza certi infortunati, certi altri in castigo, certi, sì, altri che giocano a ping pong, perde di misura un amichevole, molto amichevole in Spagna. La notizia dov'è? No, la notizia non c'è, la notizia è la reazione di Prandelli, secondo me, nel senso che insomma mi è sembrato abbastanza arrabbiato, e conoscendolo un po' per quello che ha fatto in questi anni, mi sembra insomma che sia il secondo indizio di un Prandelli un po' diverso. Questa storia che improvvisamente si è dato sta botta di vita e litiga con Conte, dice siamo piatti fisicamente. Cioè, lui è sempre stato uno molto politically correct. Troppo politico. Adesso manca la controprova, ma per una partita di questo tipo, contro i campioni di tutto, persa comunque di misura, sicuramente senza brillare, tirando in porta due volte, se non sbaglio. Il 5 di marzo, quando tutti sono in altri pensieri affaccendati, come è giusto che sia. Sì. Insomma, in una, non lo so, in una vita fa, insomma, un anno fa, due anni fa, mi sarei aspettato una reazione un po' più conciliante, buonista e di difesa nei confronti dei suoi giocatori. Invece, insomma, ieri mi sembra che appunto anche questa dichiarazione che abbiamo fatto sentire sulla condizione fisica e sul fatto che c'era questa voglia che si intravedeva di voler recuperare il pallone alti, ma la gamba non le sosteneva, mi sembra una dichiarazione che va, insomma, è stato critico, non ha fatto 0-0 dalle dichiarazioni ed è la seconda volta che succede in tre giorni. Sì, tra poco approfondiremo anche questa questione, perché io ho una mia teoria sul fatto che comunque in Italia giochiamo un calcio diverso rispetto a tutto il resto del mondo. Per i miei amici del rugby è come se giocassimo soltanto tre fasi, quando normalmente dovremmo una grande squadra giocare 7-8, no? Cioè ripartenze, ripartenze, ripartenze. No, non abbiamo le gambe, perché qui in Italia Un giorno mi cerco questa statistica: quante sono le interruzioni nel campionato italiano rispetto a quelle che ci sono nei campionati inglese, tedesco, francese, spagnolo, ucraino, polacco, svedese, bulgaro, svizzero e kosovaro. A proposito, Kosovo, grande giornata ieri a Mitrovica, al di là della bandiera serba bruciata, che non è mai un bel vedere, ma insomma è stata una bellissima festa, insomma, la dimostrazione del fatto che ci può essere spazio per i popoli, no? per il sentimento. Sappiamo che in questo momento è una nazionale non riconosciuta del tutto, riconosciuta soltanto, insomma, ha uno status di serie B in pratica, quindi non c'è l'inno nazionale, non ci sono gli stemmi, sì. Non c'è la possibilità ancora di essere inseriti nel girone di qualificazione di europei e mondiali, però intanto è un riconoscimento e fra l'altro sarebbe anche una squadra discreta, perché se tutti poi decidessero di lasciare le varie nazionali, cosa che non succederà, insomma ci sarebbero anche se tu sai cosa... Shakiri, Berami, Shakira, Risha. No, Shakira ma... no, Shakira gioca con la Spagna, Shakira, col signor Piqué. Col signor Piqué, no, ma io non condivido questo fatto, tu lo sai. Io totale apertura a qualunque oriundo, perché se uno, ripeto, ha i documenti e non li ha rubati da qualche parte, ha diritto, ed è eleggibile, ha diritto di poter essere eletto in una nazionale. Non mi piacciono i cambi di maglia, quando uno ne indossa uno se la deve tenere. Però lì c'è da dire che la nazionale di Kosovo è nata ieri, quindi sì, e sarebbe comunque da parte degli interessati, sarebbe anche una scelta, diciamo, contro la convenienza, perché sì, sicuramente insomma, a noi piacciono gli irregolari, no? Appunto, quindi potrebbe essere anche una cosa. No, adesso te la tiro grossa prima del traffico, che ti appassiona sempre moltissimo. Sì. Le notizie, le vere notizie di ieri sera, che poi notizie fino a un certo punto, sono l'inserimento di un solido difensore finalmente provato come Paletta, che non ha fatto altro che confermarsi, perché gioca così e a questi livelli ormai da un sacco di tempo. E poi il fatto, anche questa che notizia è, che senza uno che accende la luce, che gira l'interruttore, che inserisce la spina, non facciamo mai gol, che si chiami Balotelli o Totti o Gassano, metti chi vuoi. Tutti convocati. Allora, un utile time out intanto, quello che abbiamo approfittando di questi istanti. Siamo baciati appassionatamente. No, 800 24 00 24, numero anche no, verde, dove siete? Qui tra poco arrivate. Parleremo poi anche di Milan, perché ci sono queste voci, queste indiscrezioni, sì, ovviamente smentite. Mi sembra la storia della Vispa Teresa. Cioè, punto. No, non lo so, io mi limito a notare, dal punto di vista della fredda cronaca, che queste notizie sono 6-7 anni che escono, e poi puntuale come la cartella esattoriale arriva la smentita di Fininvest, che è già arrivata ieri sera, proprio in tempo zero, nonostante le numerose smentite tornano a circolare illazioni su un'eventuale vendita del Milan. Poi posso dire una cosa che magari è impopolare, che secondo me tutte le società del mondo sono in vendita. Nel senso che se in questo momento ci sono pochi soggetti, che purtroppo non sono in Italia, che hanno una quantità di soldi da poter investire sul mondo del calcio, come è successo per esempio a Manchester col City o a Parigi, che insomma se arrivano, io non credo che nessuno possa essere immune al fascino. Il mondo è mezzo da vendere, mezzo da comprare. Anzi, sai cosa ti dico? Se Emiliano Mondonico mi assumesse come bracciante nelle sue campagne, io mollerei il microfono istantaneamente, facendo la gioia della maggior parte dei nostri ascoltatori. Cioè, lui è l'Abramovic delle campagne. Ciao mondo! Ciao a tutti, Vitto e Alloggio. Vitto e Alloggio, fantastico. Ci racconti un po' la vita della campagna. Arrivo in questo domani momento. Mattina alle 6. Che si fa in questo momento? Che ci abbiamo adesso? Che? In questo momento bisogna aspettare che sta maledetta acqua smetta. Meno male che è uscito il sole e i terreni si stanno asciugando, se no non si possono fare le semine, perché più butti giù il seme, marcisce continuando a piovere. Tu che semine fai? Di cosa? Si semina, in questo momento si semina l'orto, e l'orto diventa importante, si seminano i pomodori, le zucchine, le vari tipi di insalata. Diciamo in questo momento è il clou proprio della verdura da mangiare giugno, luglio, agosto. Sì. Però se non la smette di piovere, speriamo che sto tempo duri, così ci ributtiamo dentro. Quest'anno devo anche piantare l'uva, perché quella che avevo l'anno scorso mi ha fatto la bellezza di un grappolo. Mangiato dagli stornelli. Guardalo lì, che lo veneravo, avevo su giù 6 viti. Una sola ha fatto un grappolo di uva nera. Guarda, lo veneravo perché c'è un sapore particolare l'uva, proprio che cresce nel tuo giardino, e perciò volevo proprio sentirmelo. Sono arrivati gli stornelli e mi hanno lasciato solo lo scheletro. Io sono contro la caccia, ma se vuoi porto la fionda, Emiliano, quando vengo a lavorare per te. Non sono buoni neanche da fare gli uccellini. Guarda che c'è Pardo che sta impazzendo dalla fame. Senti una cosa, invece posso esporti la mia teoria sulle parole di Prandelli, sulla condizione fisica dell'Italia, parlando di cose molto meno interessanti, naturalmente. Allora io ho l'impressione che in Italia si giochi la metà rispetto agli altri paesi. Allora, qui il gioco è sempre fermo, c'è il fischio dell'arbitro, i fischi sono tantissimi, ci si ferma per il solito comizio intorno all'arbitro, poi si riparte, c'è uno sprint veloce, poi di nuovo fermi. Dalle altre parti, io parlavo prima del rugby, non so se ti piace, comunque nel rugby se giochi tre fasi sei una squadretta. In Italia si continua a fermarsi e poi ripartire. Guardi una qualunque partita di un altro campionato e sembra un altro sport proprio dal punto di vista fisico. Differenza che c'è, non so, cioè tra i 100 metri e i 5.000. Io posso dirti che sì, sicuramente la tua è una valutazione giusta, però io penso che la Spagna sia più veloce di noi, ma dal punto di vista di qualità naturali. Sono più veloci perché magari è più gente che va a cercare l'uno contro uno. Noi abbiamo bisogno di giocatori più potenti perché dobbiamo avere gente che vadano a chiudere le diagonali, a chiudere le catene, a fare delle gran volate in avanti, delle gran volate in indietro. Loro sono tutti, invece, erano tutti giocatori svelti, rapidi, abilissimi nell'uno contro uno, perciò è chiaro che arrivano sempre primo. Se è normalmente più veloce di te, è chiaro che arriva sempre più. A me sembra che anche la velocità della circolazione di palla, no? Tante volte ma è chiaro, anche perché correre meglio. Siamo in primi di marzo, siamo qui a dire che ha piovuto fino a ieri e perciò faceva fresco, se non freddo. Come si può pensare che i partecipanti al nostro campionato siano già bolliti? Certo. Non siano al meglio della condizione fisica in questo momento. Io penso che siano al meglio della condizione fisica, e ti dirò che Paletta l'ha dimostrato. Ma Paletta chi marcava? Marcava quelli che passavano di lì, la Spagna. No, marcava questo Diego Costa, che è l'unico giocatore che non c'entra con la Spagna, che sicuramente non fa della velocità una sua prerogativa. E nonostante la Spagna non voglia giocare col centravanti, arrivava anche lui sempre secondo con Paletta, perché chiaramente non era uno veloce, e Paletta, che sicuramente non è uno veloce, se la giocava alla pari con uno che era come lui. Mi è difficile, se non andare su Abate o su Criscito, trovare altre accoppiate dove noi eravamo pari velocità con loro, ma a livello di qualità naturale, di qualità normale, perché tu sei meglio di me, che non è che se tu hai uno che è lento perché ha più fibre bianche che fibre rosse e lo metti con uno veloce che ha più fibre rosse che fibre bianche, non è che questo allenandosi diventa veloce con meno un altro, no, ma diventa certo, meno lento. Scusa, è un po' quello che dicevo io, cioè fibre bianche e fibre rosse. Noi abbiamo dei bestioni, abbiamo bisogno di giocatori grossi, molto potenti fisicamente, per il motivo che tu stavi dicendo. Gli altri invece hanno dei mezzofondisti. Prima di passare la palla a Pardo, ti leggo questo messaggio che è meraviglioso. Io Mondonico me lo tatuerei. Fantastico. Pensa Stefano, uno con la tua faccia tatuata sul braccio. Senti, facciamo la formazione di Mondonico per il mondiale, dai. Tanto no. Non... Ah, sai, più che formazione, facciamo il modulo. Partiamo dal modulo. Perché okay. ieri penso di importante si è visto nel secondo tempo il ritorno del rombo. Il ritorno con Pirlo vertice basso, Montolivo vertice alto, Motte Marchisio sugli esterni centrali. E ti piace? E il rombo è stato un po' la nostra fortuna agli europei. È stato un po' quella tipologia di gioco che ha messo in difficoltà gli avversari. Davanti dipende da Pepito Rossi. In pratica col finto trequartista, perché poi in quel ruolo lì abbiamo sempre avuto. Perché sono quattro giocatori centrali che si intercambiano e perciò che creano anche problematiche agli altri, perché non è che uno va a marcare Pirlo e il gioco si spegne, uno va a marcare Pirlo ed entra in azione Thiago Motta con la sua pacatezza, non parliamo di lentezza, pacatezza, però uno che chiaramente sa giocare in quel ruolo. Perciò io penso che il rombo ai mondiali sia ancora determinante. Ok, davanti, rombo. Dietro come giochiamo? A 4 o a 3? A 4? Ecco, dietro a 4 o a 3, però, dietro abbiamo tutti i difensori, Paletta compreso, che giocano in squadre che giocano a 3. Certo. E perciò, agli europei, Cesare ha fatto giocare la squadra come giocavano nelle loro squadre di club, i 3 dalla Juve, chiaramente li ha fatti giocare in quella maniera. Quando ha mancato un centrale ha preso De Rossi e l'ha messo a fare il centrale. Certo, con la Spagna, io sono anch'io con Rombo più convinto di una difesa 4. Però riesco anche a capacitarmi di una difesa 3 con due cursori di fascia. A quel punto la punta Balotelli. Se invece guarisce Pepito Rossi, è chiaro che giocherà Balotelli e Pepito Rossi. E perciò la difesa dovrà essere per forza a 4. Diciamo che tutto dipenderà dalla presenza di Pepito Rossi, perché è l'unico, penso, in Italia che a livello di capacità tattica possa giocare in coppia con Balotelli. Sì, certo. E chi accende la luce? Prego? È uno di quei due. Chi accende la luce? No, ma infatti, secondo me, accendere la luce sono Balotelli. Mezzo al campo delle qualità ce l'abbiamo, mezzo al campo. No? Mezzo al campo c'è questa sorpresa dei quattro centrali che giocano in un rombo. Ed erano abilissimi a girare. Pirlo lo trovavi davanti alla difesa, lo trovavi largo a destra, lo trovavi addirittura alle volte a fare il trequartista, con gli altri che si sistemavano di conseguenza. E non è una cosa facile, perché è stato molto molto abile Prandelli a trovare un po' questa disposizione tattica. Ha questo Giaccarini, che è un po' il giocatore universale, che può fare tutto. Questo può fare da Balotelli, forse non può fare Buffon. No. Per il resto può fare tutti i ruoli. Perciò ecco che la difesa dipende da Pepito Rossi. Cioè, se giochiamo due punte rombo e quattro in difesa, o se invece giochiamo una punta 3-5-1-1 3-5-1-1 o anche 4-5-1 o 5-4-1 con Rombo. A me piace. 5 dietro, 4 e Balotelli da davanti. A me piace questa storia. Secondo me è sempre determinante. Senti, non so se hai letto pagina, non so, 20-21 della Gazzetta di oggi, dove si parla di lotta salvezza e si dice che il catenaccio non paga. Che... Cavolo che il catenaccio non paga. pagina 17 della Gazzetta di oggi. No, ditelo di venire a dire a me che il catenaccio non paga. Quando sei una squadra più debole, vai a giocartela viso aperto. Posso dirti una cosa? A me piace da morire. Sai che legnate che ti danno? Allora, il primo anno della Cremonese in Serie A, la Cremonese faceva il miglior calcio della Serie A. Mi ricordo. Sai quanti punti anch'io abbiamo fatto? Mi ricordo 15. Benissimo. 15 sì, punti. Anch'io. Eravamo già retrocessi a Natale. E lì ho incominciato a capire che forse il fatto di giocare bene, di uscire dagli applausi, in mezzo agli applausi da tutti gli stadi, era più una presa in giro che non un attestato di stima. Ma dai, ma è inutile andare a fare i fighi anche con la Spagna, cioè la Spagna la devi affrontare come fece l'Inter con il Barcellona, per me quella è una partita paradigmatica. Ascoltatemi, la Spagna non puoi mai fare un amichevole con la Spagna. Bravo, ecco, Spagna e Brasile tu gioca con tutti, ma lascia perdere la Spagna. Sono loro i favoriti o il Brasile? Io penso il Brasile perché gioca in casa e ti dirò che sotto sotto mi auguro il Brasile, perché in questo momento ha molto più bisogno il Brasile di vincere i mondiali che non altre nazionali. Sicuramente. È chiaro che questa Spagna col cavolo che regala qualcosa. Grazie mister. Ciao mondo. Grazie a voi. Buona giornata a tutti. Veniamo per la semina, Vitto e alloggio. Vitto e alloggio domani mattina alle 6. Posso dare una tuta completa verde. Perfetto. Con la cerniera lunga. che si lava la sera e si mette. Sì, io vorrei fare uno stage più una testimonianza, due ore e poi andiamo a cena, no? Non si no, può fare. No, ma la cena proprio mi vuoi. Cioè, ma oh, la cena è continua. Ma tu hai mai, preso, mi piace. Hai mai preso una mela dalla pianta e mangiarla, una fragola che sale dal. Dal terreno, una carota che la certo, tiri però fuori. Siccome non ci sono gli alberi di cacio e pepe, io poi dopo vorrei comunque capire, cioè, perché la carota è buona, se la fragola pure, però dopo un po' mister, io ho bisogno di carboidrato, però va benissimo, insomma, poi il carboidrato nasce dal grano, la semina, anche quelli della sera che vengono, va bene, vengono, va bene, il ciclo della vita, andiamo veramente ecco, voi due non abbiate problemi. Andiamo un giorno, scusate, andiamo un giorno a fare trasmissione, si può fare tecnicamente, visto che adesso siamo certo, in tour in Italia, certo. Andiamo un giorno a casa di Mondoni, ci siamo autoinvitati, magari se facciamo pur parlare, andiamo prima, lì e facciamo. Prima facciamo la trasmissione o prima mangiamo? No, prima mangiamo e durante la trasmissione anche. Io voglio. No, perché sono già venuti a mangiare. E dopo dovevamo giocare a scopa, perché sì, tu sai che è tradizionale, no, giocare certo, a scopa. Come no. E ti dirò che durante la partita di scopa ci sono stati dei grandi personaggi che si sono addormentati. Vabbè, ma qui è mancanza di rispetto. Io ho detto a Bruno, Bruno, tocca a te. E lui si è svegliato, gol, mi ha detto, no, stiamo giocando a scopa. Allora organizziamo. No, voi, cioè organizzate, voi mi dite... Veniamo questo giorno ed è già tutto organizzato. Perfetto, però io vorrei anche seminare una cosa, simbolicamente una mezz'ora con la tuta, va bene? Proprio sì, per dare un gli senso. Stivali, vabbè, ecco, gli stivali, il numero di piede? 45. Adesso? 45 qui non c'è, nel mio paese famiglia. Non c'è nessuno che ha 45. Esagerato. Adesso durante la borsa spiego a Pardo due cose sulla vendemmia che io ho fatto diverse volte. Ma, grazie mille. Trionfo. Con i 45 a piedi nudi saresti un buon vendemmiatore. Hai capito? Ana capito, diciamo noi, dalle nostre una parti. Ciao, Emiliano. Ciao, buona giornata a tutti. Tutti convocati. Jason. Jason Drew. Mi aspetto almeno una mezza chiamata a dire, oh stupido, come sta Giorgio? Ecco, io lo trovo sicuramente poco garbato, poco educato. E quindi non pensavamo che potesse essere convocato. Ci è parso strano un po' tutte le componenti societarie. Quando tu convochi un giocatore e lo vedo in campo o lo vedo in panchina, io ho il diritto di convocarlo. E penso più che altro di avere un ruolo e un'età che mi permette ancora di poter stare in disparte, ascoltare e vedere, ecco, senza poter giudicare. È chiaro che mi sono sentito svuotato perché le persone vivono di emozioni e certe cose è meglio viverle sul campo e non fuori. Ci tengo a precisare che con il Club Italia, con Prandelli, la Juventus, Conte e Marotta non hanno assolutamente niente di pregiudizievole. Abbiamo, diciamo, soprattutto Conte, per amore del lavoro che fa, per amore della Juventus e dell'obiettivo che ancora deve essere raggiunto, fatto delle esternazioni, ma delle esternazioni che sono critiche vanno anche accettate. Per quanto riguarda appunto il rapporto con Prandelli, il rapporto è molto cordiale e corretto, per cui sicuramente gli stringerò la mano come ho sempre fatto. Questa è la grande storia dell'ultima polemica, adesso da domani andiamo avanti, dai, rosario delle conferenze stampa in cui gli allenatori delle grandi squadre diranno però adesso ho avuto i nazionali mezz'ora fa e quello non si è allenato e quello ha perso l'aereo, se non vogliono che sia così prendano quelli scarsi e non avranno di questi problemi. No, queste polemiche, queste cose, queste continue lamentele sui nazionali, al di là del caso specifico, mi danno fastidio. Enzo Bari, poi Alessandro Roma e poi 800240024. Enzo? Sì, senta, io chiamo per la seconda volta a distanza di un paio di anni e bene, mi rendo conto che l'argomento è lo stesso di due anni fa. Sì, vale dire, mi sembra incredibile che un giocatore come Cassano non sia considerato nella prospettiva di mondiale. si sta dimostrando e confermando nel Parma come uomo squadra, ha fatto 9 gol, infiniti assist a cui determinanti, con Balotelli ha un'intesa straordinaria, mi viene a mente il gol di Italia-Germania agli europei, un gol da manuale. Sì. E come mai non riesce, diciamo, a trovare attenzione da parte del io non ho diritto di parola su questo argomento, quindi parla per no io parte. sono d'accordo, che devo dire, cioè sono d'accordo nel senso che poi si può anche decidere alla fine di non portarlo, si possono anche fare altre valutazioni. Per esempio, una cosa, sinceramente, io ho un buon rapporto con Cassano, ma sicuramente lui in carriera spesso ha dato la sensazione di non poter gestire con facilità le panchine, no? Cioè il concetto di essere messo in discussione. E quindi quello, per esempio, è un ragionamento che ci può stare. Se tu ti rendi conto che Cassano è una riserva, gli devi fare proprio un bel discorso. E sì, poi forse alla fine puoi anche decidere che non ti fidi della sua capacità di fare panchina e magari entrare a 20 dalla fine. E questo secondo me è una cosa che si può dire, no? Cioè lui è sempre stato abituato a essere protagonista e tante volte sappiamo che ha mugugnato quando non lo era. Quindi questo è un punto di vista, secondo me, che ci sta. Ma glielo spieghi, ormai è un'età. Glielo spieghi, gli fai prendere a quel punto a lui eventualmente una decisione. Il fatto un che non Tavor gli vai prendere? Il fatto che non venga preso in considerazione, francamente sono d'accordo con lei, insomma, sì. E penso che non sia sinceramente un fatto di amicizia. Cassano per me è un giocatore che soprattutto nella grande competizione, soprattutto nella competizione breve di 20 giorni, può fare la differenza. Ricordiamoci quello che ha fatto all'Europeo, 3 mesi dopo essere tornato in campo per il problema al cuore. Cassano non ha giocato bene tutte le partite, però ha giocato titolare tutte le partite. È stato migliore in campo contro l'Irlanda, ha fatto un'ottima partita all'esordio contro la Spagna, ha giocato maluccio contro la Croazia, ha fatto una partita pazzesca contro la Germania, che poi ha portato chiaramente Balotelli a diventare nettamente il migliore in campo e l'uomo che ci ha portato alla finale. E poi in finale sicuramente Cassano ha giocato male, ma direi tutta la squadra. Sì. Mi sembra che il giocatore c'è nelle grandi partite, il giocatore c'è, figuriamoci adesso che viene da una stagione comunque tranquilla. È quello che ti dico, che sia, possiamo discutere di Cassano, di Totti, di Balotelli, cioè, però di giocatori in grado di, al di là del modulo, di tutto quanto, in grado di accendere la luce con una giocata, noi non ne abbiamo, ma è così, non è che E tanto più se vale il principio che in qualche modo ieri Prandelli ha confermato. Sicuro. Cioè, se noi non siamo attraverso il gioco, cosa che a tratti si è vista in questi anni con Prandelli, è un po' quello che ci raccontava Terazzi l'altro giorno, no? Questa è una nazionale che ha una sua idea di gioco e il merito di Prandelli che gliel'ha data dal giorno zero. Però se arriviamo in condizioni che non sono eccezionali, come c'è il rischio che possa succedere, fra acciacchi, infortuni e stanchezza, hai bisogno dei giocatori che possano accendere la luce. Sì, quando chiamiamo Cassano? Quando convochiamo? Può non essere Cassano quel giocatore lì, però secondo me avere un Jolly, un giocatore capace di accendere la qualità dei nostri attaccanti serve, insomma. Fate due domande a Pazzini su che giocatore può essere Cassano per un attaccante, no? Sul discorso dell'intesa con Balotelli, secondo me è vero fino a un certo punto, nel senso che in realtà secondo me il meglio Cassano lo può dare con una punta centrale un po' più tradizionale. Sì, però sono due istintivi, sono due che ci può essere un argomento a favore dei no, che dice se già ho una mina vagante come Balotelli, un'altra come Cassano non la voglio. Facciamo i soldatini. Io ricordo che le due mine vaganti ci hanno portato in finale all'Europeo, che è stato un ottimo risultato. È quello che penso anch'io. Io sono per le mine vaganti, anche se ne abbiamo due, le gestiremo. Alessandro? Sì, pronto? Sì, pronto. Buongiorno, dica. Come va? Bene. Complimenti per la trasmissione. Questa è la quarta volta che chiamo. Quarta. Faremo la classifica. Sì, bello che ognuno chiama e ci racconta le puntate precedenti. Qual era l'argomento delle altre tre chiamate? Cominciamo dalla prima. La prima telefonata è stata nel febbraio del 2000. Vabbè, ma scherzavo, dai, andiamo avanti. Torniamo al presente, vai. Vabbè, comunque a me la nazionale quest'anno mi fa veramente ridere in tutti i sensi, perché ieri sera contro la Spagna abbiamo giocato proprio come di una squadra di Serie B, perché se tu vai a vedere, sono d'accordo il discorso che ha fatto Pierluigi Pardo sul fatto che Balotelli che ci ha fatto portare in finale, io mi auguro con tutto il cuore che Spero che questa nazione c'è. Sì, Alessandro, noi non ricordiamo a memoria delle amichevoli, soprattutto giocate in questo periodo, dopo le quali abbiamo detto: oh Madonna, che nazionale! Vero, che abbiamo, però quanto tempo meraviglia. È che non battiamo una grande? Sì, è tantissimo tempo, però Pier, l'Italia lo sappiamo, non è. No, le amichevoli non ci fanno schifo. Amichevoli ci proprio fanno non schifo. Ce ne può fregare di meno. Ci annoiano anche assai. E in questo io sono molto italiano, sì, devo dire. Pure. Cioè, se io faccio una fatica, arrivo all'ultimo minuto. Sì. Però insomma, questo secondo dato è abbastanza oggettivo, cioè tantissimo tempo che non riusciamo contro le grandi squadre d'Europa a vincere. E ogni questo nazionale è... però ha il suo DNA. Il nostro non sarà mai quello dell'amichevole, del girone di qualificazione contro la Moldavia. Lì faremo sempre fatica, saremo sempre brutti, saremo sempre criticabili. Quindi è vero che non badiamo le grandi, ma contiamo di farlo quando conta da bravi italiani. Tutti convocati. Sempre e ogni giorno tutti convocati, 800 24 00 24 è il numero verde. Ecco, vedi, sono così poche le amichevoli in cui siamo stati brillanti che ce le ricordiamo tutti. Ce la ricordiamo, sì, tutti, quella del 2006 contro l'Olanda, come scrive, sì, un ascoltatore. Perché? Beh, no. Perché è qualcosa di sorprendente, di inatteso, di... così di qualcosa che non ti aspetti, è un tramonto, è un arcobaleno, quello che vuoi, insomma. Deng, buongiorno. Buongiorno, complimenti dovuti. Geng, so, con la D Domodossola. Ok, Geng. Sì, Geng. No, io ho ascoltato stamattina. Di dove sei, Geng? Ci diamo del tu, di dove sei? Del Senegal. Grande. Dakar? Dakar? Senegaliano. Dakar? Senegaliano. Senegaliano. Senegalese, senegaliano. Ma Dakar? No, verso il centro. Ah, ok. Ok, mi no, volevo dire, come insomma, ho sentito dei commentatori parlare dei ragazzi naturalizzati che giocano in nazionale, sì, che io li chiamo italiani, non oriondi oppure di colore, perché sono due parole che per me sono orrende, cioè, sì, proprio, perché quando uno è nero è nero, quando uno è naturalizzato è italiano. Sì. Perché il problema del calcio italiano non sono qui, ci sono altri problemi, che la mancanza di sportività, che tutte le altre cose, i tifosi cosiddetti. Perché sì, io dico che io e il mio bambino, ho due bambini che hanno, cioè uno 12 anni, uno 9 anni, che giocano a calcio qua, no, sanno poco del Senegal. Mm. E un domani che fanno il calciatore professionista, che li mando in Senegal a giocare lì. Mm-hmm. E sono italiani, hanno certamente il passaporto italiano. Ma io la penso come te, esattamente come te. Infatti trovo molto stucchevole tutta questa manfrina sulla conta degli italiani, non lo so, dico oriundi tanto per usare un termine di comodo, però la penso esattamente come te, cioè se uno ha i documenti in regola, se uno ha cittadinanza italiana è italiano, eleggibile in nazionale, tutto quanto, quindi non vedo alcun problema da questo punto di vista. Come sta in Italia, Geng? Beh, io sto bene, sono 23 anni che sono in Italia, sì, sto bene. Ti trattano bene, ragazzi, io, sì. Come dicevo prima, sono un senegaliano. Sono senegalese, sono italiano. Ah, certo. Bene, sì, grazie. Prendiamo i più bravi e basta, giochiamo a calcio. Sì, sì, sì. Una parola, sì, sì, grazie, sul concetto, ciao, dei più bravi, ciao, c'è il dibattito aperto. Cioè, grazie, Geng. Hai letto il tweet di Balotelli? No, dimmi. No, sì, ti volevo dire, però, per onestà, senza, poi arrivano i messaggi, che c'è anche chi ci dice che se Buffon, Pirlo e De Rossi non lo vogliono, pensa sia riferito a Cassano, sì, perché è un rompiballe. Ci, sì, dice Luca da Forlì, perché Prandelli li deve chiamare per avere casino in spogliatoio? Vabbè, questo è un po'. È l'argomento. Secondo te, cioè, quanto peso ha la parola dei senatori, alcuni dei quali, come sappiamo, castigati, legati? Guarda, io ti posso solo dire quello che abbiamo. Tutti dicono che c'è stato questo litigio, e probabilmente c'è stato prima della semifinale degli europei, poi sappiamo com'è andata, sì, fra Cassano e Prandelli, e poi c'è stata la finale nella quale appunto Cassano ha giocato male, ma devo, sì, dire tutta la nazionale, poi c'è stato il ritorno, fra l'altro, sull'aereo dei giornalisti, mi sembrava ci fosse un rapporto tranquillo con il resto della squadra, non lo so, insomma, però io quello che dico è, magari non è Cassano, magari può essere un altro giocatore con quelle caratteristiche, ditemi voi chi, sì. Però secondo me o tu ci arrivi con una squadra che fa gioco, che riesce ad avere un'intensità di un certo tipo, escluderei, no, può essere pure, perché no, può essere pure, oppure ti devi inventare qualcosa, abbiamo la qualità complessiva, è quello che diceva l'altro giorno Materazzi l'altro giorno diceva una cosa secondo me molto interessante a proposito del 2006, diceva: nel 2006 c'erano più campioni, in questa squadra qui c'è più gioco. Se però noi cominciamo a dubitare del nostro gioco, abbiamo bisogno di qualche campione in più, abbiamo bisogno di qualche fuoriclasse in più. Abbiamo bisogno di un biglietto da lotteria. Sul 2006, altrimenti c'era più campione, possiamo discutere. Secondo me sono un'azione. Beh, secondo me no, secondo me è una squadra che aveva più personalità, più campionissimi. Dai. Allora, facciamo un salto al piano di sopra. Marco Berinazzo al Sole 24 Ore, perché voglio sapere se il Milan è in vendita. Dove sei? Al terzo piano? Sono al terzo piano. Non molto distante. Caffè alle 3:30? Caffè alle 3:30 anche col signor Cruciani, che chiama mentre siamo in diretta. Sì. Caffè sotto alle 3:30, va bene? Allora, ma facciamo... è un onore. Ma che onore, dai, sì. Ma facciamo così, ma allora adesso fra 4 minuti dobbiamo fermarci per il GR. Fai così, vieni giù. Vieni giù, dai, vieni giù e facciamo, sì, dopo il GR parliamo di questa cosa, dai. Del Milan. È una bufala, non è una bufala, insomma, le fonti sono fonti autorevoli, mi pare. Ma a volte anche le fonti autorevoli. Ah, ecco, quindi piarra, forse è no? Una bufala, va bene. Fra poco lo scopriamo allora, Quindi gli appuntamenti con Berinazzo sono per tutti alle 3:04 qui, ma, e poi invece alle 3:25 giù, chi vuol venire ovviamente via Monterosa, ne ha avute prima il caffè alle 3:25. Ciao Marco, fra poco, dai, chi c'è adesso, Genta? Scendi, aspetta, c'è Toir su De Boer. Ah, sentiamo. Manager of De Boer, the manager, said that they are waiting for a big team to transfer. You think the Inter can be the team? Oh, no, it's not. No. He's a good coach, but at this time we don't have any discussion with Frank De Boer. I don't know him. I never meet him. Troppe negazioni conferma. La frase era complicata, eh? Sì. Magnifico il senegalese con accento veneto, ci scrivono, concordo, sì, pienamente. Senti, bellissimo. E poi invece un altro messaggio, sì, perché quando conta in generale gli italiani ce la fanno sempre, dalla disperazione. Ma questo è vero, così, insomma, è la tradizione italiana. Bisogna rispettare il nostro DNA, che è quello di impegnarci quando serve, di lavorare quando serve, di fare cose all'ultimo momento, di essere un po' ritardatari, un po' pigri. Ragazzi, siamo fatti così, cioè se non ci accettiamo non va bene. Mentre allora, Marco ci scrive: per noi italiani un amichevole è sempre come un appuntamento con una bella donna, figa, sapendo, vabbè, già che dopo cena ci saluta. Però insomma, se durante la cena sei molto bravo, allora, ma fai ridere, che puoi fare? Scaltritti, dacci un indizio. Il giocatore di ping pong, vabbè, come sei il venale, sì. Il giocatore di ping pong, come lo vedi? Continuate Balotelli. Pure a credermi uno scemo, quelli come voi che giudicano senza conoscere li mangio in partenza. Il Milan non gradisce cose, il ping pong. Ah, non ho giocato, era solo una foto, ma se avessi giocato sono mancino. Sul mio Twitter c'è scritto: non credete a niente, a meno che non provenga da qui, ci sarà un motivo se l'ho scritto o no. Gli americani direbbero bullshit, ma comunque. Fra l'altro posso dire anche una cosa che veramente è un'informazione riservata, ma neanche, cioè, che su Twitter c'è una specie di fobia di Balotelli, nel senso che Balotelli ha il panico da Twitter, nel senso che c'è una voglia di twittare pazzesca dalla mattina alla sera, però sa che Twitter è sotto attacco continuo da parte dei dirigenti del Milan, quindi però ogni tanto non resiste, posta qualcosa, fa dei tweet che creano degli inevitabili casini. Lì il casino in questione ovviamente non è il fatto che fosse a petto nudo davanti al tavolo, sì, ping pong, ma il fatto che avesse il cerottone che ricorda l'infortunio alla spalla, e quindi uno pensa che magari giocare a ping pong non sia la cosa più utile se hai un problema alla spalla. Sì, allora io stanotte leggevo del Dream Team di Barcellona del 92, no? Ogni tanto giocaste di notte, il basket. Letture, sì, ho queste letture un po'. Chi era il tuo preferito? Mo ti dico che io ne avevo due, perché ti favo Houston e Philadelphia, quindi ma già ecco, puoi capire. Jeffrey Jordan, ovviamente una banalità, e poi uno che non c'era, cioè Rodman. Charles Barkley? What about him? Charles Barkley, yeah. Charles Barkley. E Hakeem Olajuwon? No, Hakeem Olajuwon te lo regalo. Ma come lo regali? Allora la notte anche prima Scaltritti se lo prende Olajuwon. La notte prima della finale questi hanno giocato a carte fino alle 7:00 del mattino. Sì. Poi Jordan aveva una roba con le NBA TV, doveva stare in ballo tutto il giorno, ha detto: dammi 10 minuti per fare la doccia. Si è presentato, fresco come una rosa, ha fatto sto spottone tutto il giorno, è andato a farsi 18 buche a golf e è andato a giocare alla finale olimpica. Questo è solo uno degli episodi, senza dimenticare quelli al casino, quel tutto. C'era forse una sproporzione rispetto agli avversari. Sì, ma lascia stare, la gente che vive così, ma dai, ma chi se ne frega. È arrivato Berinazzo, c'è GR, e poi scopriamo a chi verrà venduto il Milan dal signor Berlusconi. Tra l'altro il signor Toti, ormai quasi scrivono signor tutti i consiglieri di Berlusconi, poc'anzi a un giorno, vabbè, insomma, un altro programma, si può dire, si può citare? Sì. A un giorno la pecora su Radio 2, appena ci scrivono, appena smentito ogni possibilità di cessione della CIMI. Questa non è una notizia, dopo. Tutti convocati. Reduce da un lungo viaggio attraverso i corridoi del Sole 24 Ore, Marco Berinazzo, eccolo qua. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Quelli che lavorano davvero, quelli che sono, sì. No? Certo. Ma anche noi, voglio dire, però. Sì, siamo tutti sudati. Allora, il signor Berlusconi, il Milan lo vende o no? Marco Berinazzo. Beh, diciamo che bisogna distinguere tra la cronaca. No, non distinguiamo, lo vende o non lo vende? Lo venderà, certamente. Adesso. E quando? Beh, quando il processo, diciamo, per cui i conti sono stati messi a posto, che è a buon punto, questo lo dobbiamo ricordare, perché tra un po' il Milan approverà il bilancio del 2013, avrà un rosso di 5-6 milioni rispetto ai 70 di qualche anno fa, significa aver messo, diciamo, il club in linea di galleggiamento, aver rispettato quindi il mandato della proprietà di creare un club autosufficiente, e queste in economia sono le premesse, le premesse per poi vendere bene, perché certo. Berlusconi vuole vendere, ma vuole vendere bene. Leggo che vale 945 milioni di euro il Milan. Sì, queste sono le valutazioni di Forbes, insomma, su, cioè, il triplo dell'Inter più o meno. Sì, però io, insomma, ci andrei cauto su queste valutazioni, non per smentire Forbes, ma insomma bisogna considerare tanti aspetti, anche perché... Ma è meno indebitato dell'Inter? Più o meno no, il livello di indebitamento era lo stesso, però mentre l'Inter continuava a perdere 70-80 milioni all'anno e anche quest'anno perderà circa 70 milioni, il Milan, come abbiamo detto, è di nuovo in linea di galleggiamento, lo ha fatto con grandi sacrifici, lo ha fatto abbassando per esempio gli ingaggi da 200 a 150 milioni, lo farà ancora nei prossimi mesi con le politiche dei parametri zero che ti permettono di abbattere per esempio anche una cosa, sembra una parolaccia, di ammortamenti, ma in realtà poi sono cose che pesano sui bilanci. L'ammortamenti vostra. Esattamente, più o meno. E se la Juve ha posto un'asticella che sono i 200 milioni massimo di costi tra ingaggi e ammortamenti, il Milan ci sta arrivando perché era un tantinello sopra, però ci sta arrivando. Sì, ma l'Inter è stata venduta a Toira quanto, giusto per ricordare? Beh, circa 300 qualcosa. Sì, di fatto erano 70 milioni di ricapitalizzazione fatta subito e 180 milioni di debiti, per meglio dire di garanzie che erano state rese da Moratti e che Toir sta gradualmente sostituendo con, c'è una differenza enorme, con le proprie. Beh, è evidente, sai, compri una società che perde 70-80 milioni all'anno, in cui devi mettere 70-80 milioni all'anno, è un discorso. Prendi una società come il Milan, che è per esempio la terza squadra più nota in Cina, che ha un potenziale oggettivo, ed è una di quelle società tipicamente diciamo appetibili sul mercato in questo momento, perché sono deboli, diciamo dal punto di vista finanziario, in quanto hanno avuto un processo di risanamento, però hanno un grande blasone, grande storia, grande appeal a livello internazionale, quindi sono come delle Bentley un po' così, con due graffietti dal carrozziere. Chi vuole investire, il Milan è un dossier che per esempio io personalmente sto seguendo da, come giornalista, ovviamente non ho i soldi per comprarlo. No c'è purtroppo no, ho provato a farla, ma sarebbe più semplice prendere il Napoli, insomma, noi sappiamo perfettamente qual è il tuo sogno. Ma però la sensazione è che stavolta, insomma, diciamo prima, le fonti sono molto autorevoli, le fonti sono autorevoli. Non vogliamo smentire Bloomberg. Il problema è questo, che diciamo il mandato a vendere, anzi il mandato a cercare possibili soggetti interessati, di mandati, insomma, il Milan ne ha dati diversi in questi due anni, quindi non mi meraviglierei del fatto che appunto anche Lazar in qualche modo abbia sondato delle aziende potenzialmente interessate al Milan. Tutte straniere, immagino. Immagino di sì, perché in Italia insomma nessuno può fare un investimento di questo tipo. Il problema è che è il timing che mi rende molto ma molto perplesso, perché in questo momento l'unica, diciamo, parte della galassia, diciamo, Fininvest che poteva dare un mandato di questo tipo non era certamente il Milan, ma la controllata Fininvest, perché certo. Barbara in questo momento sta ristrutturando la società, sta implementando, diciamo, quelli che sono i suoi progetti, e quindi sarebbe difficile pensare che venga, certo, assolutamente. Cioè, quindi ci sarebbe da dire che Marina o Pier Silvio Berlusconi abbiano dato mandato per vendere il Milan, o addirittura Silvio Berlusconi, all'insaputa di Barbara, nel momento in cui pochi mesi fa le hanno dato in mano le chiavi di questa società. Il che, capite, che rende molto improbabile Dynasty. Il tutto. Dynasty. Ah, però è vero, è un elemento ulteriore. Insomma, non a caso. Ti do papà ti dà le chiavi della macchina e poi il giorno dopo te la vende. Mi sembra un po' difficile. Non a caso. Per carità, evidentemente Barbara potrà avere anche le conoscenze per fare altre cose nella vita, no? E l'expertise, il know-how per fare altre cose nella vita. Però, insomma, è chiaro che mi sembra più che mai in partita su questo fronte. Assolutamente. No? E non a caso, la Fininvest, che avrebbe avuto, diciamo, convenienza stamattina, per esempio, cioè, ad aspettare qualche ora, no? Stamattina a far correre il titolo, perché di fronte a un possibile interesse per un asset importante del tuo patrimonio, di solito il titolo in borsa sale. Ieri sera, proprio per evitare qualsiasi tipo di equivoco, è intervenuta a poche ore dalla diffusione della notizia con una nota ufficiale per smentirla. Vediamo continuamente. Sì, però di solito nel mondo degli affari, come dire, si aspetta qualche ora, si fa correre il titolo in borsa, tanto non ci perdi nulla, no? Se sei tu oggetto di determinati rumors o speculazioni, se intervieni subito è proprio perché hai interesse a evitare qualsiasi tipo di equivoco in famiglia e quindi sì, anche in azienda. Ma però storicamente è sempre stato così, cioè a notizia che esce puntualmente, regolarmente, di possibile vendita del Milan, segue in 8 secondi la smentita della società. Cioè è sempre stata così la procedura. Sì, questa volta, leggendo tra le righe del comunicato, mi sembra molto, diciamo, come dire, puntuale e perentorio, proprio per evitare che si pensasse in casa Milan e quindi da parte di Barbara che qualcuno nella sede, certo, Fininvest avesse. Precisiamo anche il fatto che la valutazione che è stata fatta è di 945 milioni di dollari, per cui 688 milioni di euro, quindi un po' meno. Invece volevo chiedere, ma la Roma, che adesso a giorni presenterà lo stadio, lì che succede? Si va avanti? Il progetto, quanto è un'occasione? Il progetto c'è, è un'occasione enorme per qualsiasi squadra italiana. Però all'inizio è un investimento, no? È chiaro, cioè, che non devi trovare i finanziatori. Oggi c'è la legge di stabilità che ha dato, diciamo, una corsia preferenziale con un timing molto preciso di 14-15 mesi in cui deve avere l'autorizzazione, e permette, diciamo, di avere misure compensative che non possono essere, diciamo, i palazzi, certo, o l'edilizia residenziale, ma può essere qualsiasi cosa, insomma, supermarket, attività turistiche, centri commerciali, esattamente. Quindi, diciamo, è un incentivo per attrarre i privati, servono soldi dei privati. Il progetto di 1 miliardo di cui ho sentito parlare mi sembra eccessivo, però vediamo, tra pochi giorni verrà 26, presentato. Pare, sì. Peraltro la Roma ha appena disposto, previsto per il 1° di aprile, speriamo non sia un pesce d'aprile, un aumento di capitale da 100 milioni. Ricordiamoci che c'è sempre in atto una trattativa tra Unicredit e la cordata cinese, che tra l'altro nelle ultime settimane ha visto anche i cinesi parlare direttamente con Pallotta, per cui io non escludo che i cinesi, diciamo, possano acquisire più quote al di là del 15-20% di Unicredit. È chiaro che una sinergia di questo tipo potrebbe dare maggior forza a questo progetto. Voi pensate soltanto che la Serie A, dal mancato adeguamento degli impianti, perde circa 750 milioni all'anno a stagione. Sì. Ma sai, quindi costruire uno stadio in Italia, comunque io tutte le volte che leggo, adesso facciamo uno stadio nuovo, ne abbiamo visto nascere, lasciamo perdere il Giro Reggio Emilia, nascere uno, quello della Juventus, sarà un caso, ma insomma, da quando la Juve ha uno stadio di proprietà, ha il tutto esaurito, vince tutte le partite in casa, poi per carità c'è anche una componente tecnica, no, nella crescita di questa squadra, non è che non sono i seggiolini dello stadio che ti fanno vincere le partite, però insomma è un meccanismo virtuoso che si è innestato e che sta funzionando. Vediamo qualcosa di realmente moderno ed europeo in Italia, ed è l'unico esempio, perché dalle altre parti questa è la norma. Domenico, Roma, buongiorno. Pronto? Pronto? Buonasera, buongiorno a tutti. Dica. Io vorrei ritornare sull'argomento che riguarda Brandelli, che ha detto che, secondo me, cioè quello che ha detto Brandelli è vero. È vero, ieri sera era quasi imbarazzante in certi momenti della partita, certo, la differenza. E forse Brandelli forse doveva fare un cazziatone ai giocatori, agli allenatori della, delle altre squadre. Se non ci parla Prandelli, gli altri allenatori non risulta non ci parli moltissimo, quindi ma poi che cazziatone può fare? Cioè, no, ma doveva essere secondo me una cosa magari informale e detta proprio a quattro occhi, perché non ci sono scuse secondo me per questa troppa differenza. Sì, però Domenico, però io torno a chiedere dov'è la notizia, cioè è così ed è sempre stato così, in io Italia ho capito, si gioca un calcio diverso, è sbagliato secondo me. Io la notizia è nella reazione di Prandelli, per me sì, la notizia più evidente è nella reazione di Prandelli che insomma per la prima volta sentiamo, fra l'altro dopo due giorni da quell'attacco nei confronti di Conte, insomma lo ritroviamo sempre battagliero, ed è un Prandelli diverso, inedito, che forse rivela qualche turbamento in vista del mondiale, che forse racconta di un cambio di strategia mediatica, non lo so, però insomma questa mi sembra la notizia. Poi che siamo meno forti della Spagna lo immaginavamo, anzi poteva andare anche peggio ieri sera secondo me. Facciamo anche fatica fisicamente, voglio dire, basta guardare qualunque partita di internazionale in cui sono protagonista le nostre, si va a un'altra velocità, si va a un altro ritmo e questo è evidente. Quindi... Se permettete è un falso problema, nel senso che l'importante è che si corra in quel mese lì, in Brasile, ma... e poi io per esempio Napoli-Swansea, no, che ho seguito per questioni di cuore, ragioni, sì. Napoli era sicuramente tecnicamente dal punto di vista tecnico una squadra più superiore, cioè. Ma questi correvano il triplo ed era imbarazzante vedere la differenza. Comunque a giugno saremo, io perdo 10 kg da qui a giugno, quindi a giugno saremo tutti in forma. Non so voi, Benazzo, tu sei già. Io vado a nuotare da qualche mese, ho ripreso a nuotare, per quindi cui no, spero giugno di essere in forma. Per ma giugno. Non fosse altro, fatelo, se non lo fate per i mondiali, fatelo per la prova costume, ragazzi. Si scherza, ovviamente. Andiamo giù a prendere caffè, dai. Andiamo a prendere il caffè. E, vabbè, se ne andato sgalambro. Insomma, noi battiatiani sì, siamo un po' tutti in lutto. Abbiamo sentito anche prima nel giornale radio, e certo, cioè, no, esattamente così. Senti, ma quando torni qua? No, torno qua domani, no, perché domani sarò in viaggio verso Torino, dove c'è un Marchisio. Domani pomeriggio c'è un'attività, insomma, con il buon Marchisio. E quindi, la prossima quindi settimana al telefono? È tardo pomeriggio. Potremmo collegarci nella Zanzara. Potremmo sentire cosa pensa Marchisio dello sbarramento e della legge elettorale. Ma forse non è il caso. Auguri. Grazie, Marco Verinazzi. Grazie a voi. Ciao Pierluigi, dai, sentiamo domani. Saluti dai, a tutti. Ciao. Marco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia. Ciao, a domani.